Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Questa è la nostra Italia. È evidente che viviamo nel passato. Non è vero che siamo nel XXI secolo. È soltanto quella di santi, poeti e navigatori, e non quella di innovatori l'immagine che riusciamo a dare di noi. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Un drammatico inizio, realmente drammatico, quello che ci propone il video Questa è la nostra Italia, di cui avete appena ascoltato un passaggio. Ma attenzione, si tratta di un riuscitissimo palindromo che, se letto al contrario, riserva una bella sorpresa, con uno straordinario messaggio di speranza. Cercatelo su YouTube e ascoltatelo, o meglio, riascoltatelo attentamente. Questa è la nostra Italia by ItaliaCamp. Lo sapevate che, secondo l'ultimo studio Data Giovani, si sta verificando in Italia una forte correlazione tra incremento della disoccupazione ed emigrazione? Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino, Piemonte e Liguria sono le regioni dalle quali c'è stato un boom di migranti all'estero per fronteggiare l'assenza di lavoro. Data Giovani, incrociando gli ultimi dati Istat e AIRE, è giunta alla conclusione che è il Nord Italia la nuova frontiera dell'emigrazione. Citiamo anche con speranza le recenti dichiarazioni del ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza. In Italia c'è l'impellente necessità di ricostruire un contesto nazionale favorevole alla valorizzazione dei talenti, creando un ecosistema capace di valorizzare i talenti nazionali, denuncia la Carrozza. Dal nostro paese i talenti escono e non ritornano, non per una naturale predisposizione alla circolazione, ma per la disperazione di trovarsi all'interno di un contesto incapace di valorizzare e offrire adeguate opportunità di espressione. Oggi vi segnaliamo una simpatica iniziativa dell'Unione Italiani nel Mondo, che su Instagram invita i giovani espatriati a pubblicare le proprie foto all'estero per raccontare la storia di migrazione. Tutte le info su wemagazine.overblog.com, sito web che ospita numerose storie di espatriati, informazioni su come andare all'estero e molto altro ancora. Infine, qualche secondo per il nostro saluto e l'arrivederci a settembre. Dalla prossima settimana e per 2 mesi Giovani Talenti vi riproporrà le migliori storie di espatriati under 40 andate in onda nel corso della 4ª stagione del programma. A un luglio interamente al femminile, farà seguito un agosto tutto al maschile prima di alcune trasmissioni speciali. Nel corso delle puntate estive potrete riascoltare alcune delle più significative interviste che abbiamo realizzato quest'anno sul tema dei numeri e della portata dell'emigrazione dei giovani all'estero. Vi proporremo infine il racconto di chi è tornato in Italia con un proprio personale controesodo. Non perdiamoci dunque di vista nel corso dell'estate. Noi intanto lavoreremo per mettere a punto i motori in vista di settembre. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Berlino. Per alcuni è la nuova Barcellona della decade 2010-2020, la capitale tedesca come mecca dell'espatrio dei giovani italiani, come è stata la capitale catalana nello scorso decennio, e quanto è forte l'incidenza dei giovani start-upper e neoimprenditori italiani all'interno di questo flusso di nuovi espatriati, la storia di oggi potrebbe fornirci risposte interessanti. Nome: Marco. Cognome: Gismara. Età: 28. Città di origine: Barzano, Monza. Studi: liceo linguistico più iniziato in ingegneria. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2009. Per andare dove? Berlino. Perché? Per imparare il tedesco. Quale lavoro svolgi attualmente? Sviluppo un progetto di startup. Dove? A Berlino. Tornerai? Lo spero. La Eurodance del tedesco Sash, I Believe, io ci credo, per introdurre un'altra straordinaria storia di un giovane imprenditore italiano che nella propria idea ha creduto nel profondo nord tedesco. Sarei decisamente contento di tornare in Italia e vedere applicate politiche lavorative e di vita che rendono Berlino e la Germania un polo interessante per ogni tipo di esperienza europea. L'Europa è rimasta agli anni 80 e da troppo tempo che non si pensa alla creazione di politiche che facilitino l'ambiente imprenditoriale giovanile, ci scrivi da Berlino Marco. Siamo all'ultima puntata di giugno e voglio essere senza peli sulla lingua. Concentrandoci sull'Italia, vedi un paese intrappolato nei fasti degli anni 80 in un benessere ormai passato, con una classe dirigente che non ha saputo disegnare politica industriale in oltre 20 anni? Decisamente sì. Infatti io credo che il problema principale al giorno d'oggi dell'Italia sia proprio la classe dirigente che non prende decisioni, che, come dicevi tu, è rimasta intrappolata negli anni 80 perde tempo parlandosi addosso nei talk show, non ha capito che il mondo è cambiato e non ha capito che deve incominciare a fare qualcosa per cambiare veramente la situazione che c'è oggi in Italia. E ci arriviamo. La tua storia però, prima, storia che comincia con gli studi che ti proiettano già verso l'estero fin da adolescente. Quanto l'iscrizione al liceo linguistico ha segnato la tua vita futura? Molto. Direi molto, perché è stato il momento in cui ho avuto il primo contatto con la lingua tedesca, che è quella che è la ragione per la quale poi sono arrivato a Berlino. Dal liceo linguistico passi alla facoltà di ingegneria meccanica, Politecnico di Milano. Perché un cambio così radicale? Un cambio così radicale in realtà perché una delle mie passioni sono sempre stati i motori, le auto, la meccanica, per cui senza pensare troppo a quello che andavo a fare sono passato da uno studio umanistico a uno studio puramente tecnico. Come valuti a posteriori l'esperienza di studio universitario, soprattutto il bilanciamento fra teoria e pratica? Allora, il bilanciamento tra teoria e pratica è praticamente nullo, per quella che è la mia esperienza. Nel senso che io non ho finito di studiare, lo dico, non me ne dispiace. Sì, ma non c'è niente di male. Però quello che ho imparato sui libri poi non l'ho mai messo in pratica. Se io domani dovessi tornare a studiare la meccanica e quant'altro, dovessi andare a lavorare in questo tipo di ambiente, ne saprei meno di zero. Nel 2008, la svolta che cambia la tua vita, parti per Berlino per un corso di tedesco di 2 mesi, fu praticamente amore a prima vista con la città. Quale mondo si è aperto per te nella capitale tedesca? Per me si è aperto un mondo completamente diverso, un mondo che non parlava la mia lingua, per cui un mondo in cui dovevo arrangiarmi, dovevo capire quello che gli altri mi dicevano, capire come loro la pensavano e cercare di integrarmi con loro. Un mondo che però dall'altra parte mi ha dato anche molte possibilità che mi hanno permesso ad oggi di essere ancora qui. E nel 2009 torni nuovamente a Berlino per altri 3 mesi di corso, dopodiché prendi la decisione definitiva, emigrare in Germania. Cosa ti spinge a una cesura così netta con l'Italia? La Germania mi ha dato quelle opportunità che l'Italia non mi diede allora e penso non mi darebbe nemmeno adesso. Il costo della vita era e tutt'oggi è abbordabile, il lavoro ce n'è poco, però comunque una persona riesce a reinventarsi, a trovare qualcosa. La città e il sistema dà ogni tipo di aiuto possibile per i giovani, per trovare il loro percorso. Gli aiuti, diciamo, sono infiniti, per cui questi sono, secondo me, i fattori principali che hanno fatto sì che tagliasse praticamente tutti i ponti con l'Italia. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. All'inizio ti mantieni con qualche lavoretto. Com'è stato l'impatto con Berlino, arrivando e dovendo costruirsi un percorso da zero? L'impatto è stato molto difficile, nel senso che il cambiamento, arrivando da un piccolo paese nel verde della Brianza dove praticamente tutto è dovuto e tutto è dato, confrontato con una città in cui sono partito solo, non conoscevo nessuno, non conoscevo molto bene la lingua e l'ambiente è stato veramente duro, difficile. Dall'altra parte però ho avuto la fortuna di cogliere al volo delle opportunità che mi sono state proposte e da lì inventarmi un paio di lavori. E le andiamo a snocciolare, infatti hai trovato un tirocinio all'interno di un'agenzia aerospaziale come traduttore tecnico, poi sei passato come tirocinante a una startup come AD Marketing, poi ti sei ancora trasformato in un professionista delle risorse umane. È straordinario vedere quanti diversi lavori hai cambiato in pochi anni, reinventandoti sempre. Hai trovato a Berlino un ambiente di lavoro dove la mobilità professionale è un valore e non un handicap? Assolutamente sì, perché l'ambiente del lavoro qui non premia chi ha tot decine di anni di esperienza rispetto a chi invece ha cambiato più volte la sua posizione lavorativa, anche saltando da un ambiente all'altro, anzi molto non è esattamente così in Italia, vero? No, purtroppo no. Quello che vedo io di molti amici che sono adesso in Italia è che si tende molto a sminuirsi, a cercare il contratto a tempo indeterminato, lasciando perdere l'aspetto economico, anche avendo delle ottime qualifiche alle spalle, piuttosto che saltare da un lavoro all'altro per cercare sempre il meglio. Il tuo percorso ti ha portato al tuo progetto attuale, in cui sei imprenditore, che si chiama Locals. In breve, cos'è Locals? Locals è una piattaforma o un marketplace per le esperienze turistiche in Italia, che ha lo scopo di mettere a contatto il viaggiatore estero e italiano con gli esperti locali chiunque abbia delle offerte da vendere a livello turistico, enogastronomico e quant'altro, e vuole far vivere l'esperienza turistica con una persona del luogo che quindi conosce la cultura, la storia, le tradizioni e può offrire un valore aggiunto enorme al viaggio dei turisti. Ma come sei arrivato a mettere in piedi questa tua esperienza imprenditoriale? Ci sono arrivato per vie traverse, nel senso che quando mi sono occupato di risorse umane ho avuto la fortuna, diciamo, di entrare nel variopinto mondo delle start-up e da lì appunto sono venuto in contatto con molte persone che arrivavano da ogni parte del mondo, tra cui anche l'America, e proprio dall'America sono venuto a contatto con delle persone che stavano sviluppando questo prodotto già 3 anni fa per appunto gli Stati Uniti. È stato difficile mettere in piedi un progetto imprenditoriale a Berlino? Difficile no. Qual è stato il valore raggiunto di essere a Berlino? Sicuramente l'internazionalità e la facilità con cui si viene a contatto con persone di diverse culture che hanno molto da condividere e da insegnare. E a livello di fondi? Non c'è una buona situazione, però diciamo che l'internazionalità, l'internazionalizzazione aiuta a mettersi in contatto con persone che potrebbero essere interessate. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Marco Wismara, 28 anni, imprenditore start-upper a Berlino. Marco approda nella capitale tedesca nel 2009 dopo gli studi in ingegneria, affascinato dall'ecosistema berlinese. Per diversi mesi si adatta a stage e lavori molto diversi tra loro, dalla traduzione tecnica al marketing, dalla selezione delle risorse umane fino alla decisione di entrare nel mondo dell'imprenditoria innovativa. È così che Marco comincia a lavorare sul progetto Locals, portale web dove esperti che vivono in determinate aree turistiche possono fornire esperienze di viaggio a turisti che programmano di visitare proprio quei luoghi. Da Berlino Marco guarda all'Asia e al Sud America come le nuove frontiere del mondo startup, ed è qui che arriva la mia domanda. Marco, nell'email che ci hai inviato parlavi proprio di questi continenti come i nuovi mondi a cui rivolgersi. Ci racconti la ricetta vincente di questi nuovi mercati, portandoci ad esempio il Cile? Il Cile credo che sia una realtà straordinaria, nel senso che sta creando un ecosistema imprenditoriale giovanile che secondo me non ha uguali al mondo. Basti pensare che un ragazzo di qualsiasi età, quindi dai 20 ai 30 anni, ipoteticamente uno start-upper, può aprire un'azienda in 10 minuti online completamente gratis. Questo secondo me è uno dei principali vantaggi, oltre al fatto che comunque Sud America è uno dei mercati emergenti in questo tipo di settori start-upper. Prendiamole a modello questi esempi. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Una proposta concreta da cui ripartire? Il problema principale dell'Italia è la classe dirigente, come già dicevo prima, quindi delle persone che dovrebbero prendere delle decisioni, dovrebbero facilitare l'integrazione, lo sviluppo, l'innovazione, che però continuano a parlarsi addosso, che non si mettono a fare quello che dovrebbero fare. Ci raggiunge ora in linea Antonio Perdichizzi, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria a Catania. Buon pomeriggio Antonio. Ciao Sergio e buon pomeriggio agli ascoltatori. Prima di toccare il tema startup ti chiedo un rapido commento alla storia di Marco con un'angolatura ben precisa, quella del turismo. Marco parlava nelle email che ci ha mandato di potenziale turistico poco sfruttato in Italia. Possiamo prendere il turismo, Antonio, come lo specchio di un paese con risorse straordinarie, incapace però negli ultimi decenni di rinnovarsi per sfruttare questo potenziale? Assolutamente sì, è uno dei temi sempre verdi nel nostro paese. Risorse illimitate dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, eppure non riusciamo a trovare la chiave per trasformarle in risorse economiche. Credo che dovremmo iniziare a pensare di più a quello che il paese può essere oggi e non a quello che potrebbe essere domani. Antonio, non abbiamo scelto a caso di raccontare la tua storia perché abbiamo voluto fare, costruire un ponte ideale Berlino-Catania unendo nord e sud dell'Europa per dimostrare che anche in Italia si può innovare e che quell'ecosistema di nuova imprenditoria giovane di cui parlava Marco esiste già e si sviluppa e cresce nonostante tutto e nonostante tutti. Antonio, cos'è Startup City? Sì, abbiamo voluto creare un ecosistema che fosse favorevole alle startup, quindi alla creazione e allo sviluppo di impresa nella nostra città, Catania, partendo dal concetto che abbiamo bisogno di nuovi paradigmi economici. Un territorio che sia favorevole alle startup vuol dire un territorio dove si fa condivisione, networking, dove le opportunità possano circolare ed essere colte. Tante delle cose che Marco raccontava di Berlino e tante delle cose che abbiamo scoperto in altri ecosistemi al mondo, come ad esempio quello di Silicon Valley. Noi siamo fortemente convinti che non abbiamo bisogno di un ponte di ferro e di cemento, ma di un ponte digitale, culturale, digitale di rete con l'ecosistema di varie parti del mondo, e tra queste anche quello di Berlino, naturalmente. Quale strategia avete adottato a Catania per implementare questo ecosistema? Una strategia fatta prima di tutto di azioni concrete. Abbiamo avviato come Giovani di Confindustria lo sportello per la creazione di imprese Imprendi Catania, che poi è divenuto Imprendi Sicilia e da poco Imprendi Italia, quindi una pratica sul territorio nazionale, offre orientamento, supporto, consigli e soprattutto network ai giovani che vogliono creare impresa. Moltissimi eventi sul territorio di animazione, competition per far emergere idee sin dalle scuole superiori ma anche dalle università, e alla fine anche spazi fisici come un acceleratore che abbiamo aperto con Working Capital di Telecom Italia per dare una casa alle nostre start-up. Le istituzioni vi aiutano? Le istituzioni no, speriamo che non ci rallentino, ma non abbiamo avuto aiuti dalle istituzioni, continuiamo a dialogare, continuiamo a sperare che possano incidere finalmente in maniera positiva, e devo dire che in questa fase non ci hanno ostacolato e da un certo punto di vista tanto ci basta. Quante start-up state aiutando a crescere e in quali settori? Decine di start-up, alcune di queste sono già diventate mature tale da ricevere finanziamenti. I settori che noi consigliamo e che noi riteniamo driver di sviluppo per la nostra regione sono l'ICT naturalmente, ma anche il turismo, quindi ad hoc la puntata odierna, e poi il green, diciamo tutto quello che è legato all'agroalimentare d'eccellenza. E la cosa straordinaria è che il vostro progetto dalla Sicilia è diventato modello per l'Italia con lo sportello Imprendi Italia, che ti vede coordinatore della Task Force Nazionale dei Giovani Imprenditori. Qual è l'obiettivo finale che avete? L'obiettivo finale è partire dalle Startup City per arrivare alla Startup Nation. Abbiamo un esempio non molto lontano geograficamente da noi, che è Israele, una vera e propria Startup Nation. Crediamo che lì il processo è stato dall'alto verso il basso, in Italia invece stia nascendo un movimento che dal basso può portare appunto dalle città, dai territori, a far diventare questo paese una startup nation. Noi ci crediamo fermamente, nonostante tutti i vincoli, nonostante tutte le difficoltà. La società di oggi non ama chi vuole fare impresa, non stimola né ammira chi decide di intraprendere, non fa il tifo per chi ha successo e crea occupazione e sviluppo, hai recentemente denunciato, Antonio. E ti chiedo, come combattere questa non cultura, come abbattere questo muro di arretratezza e ignoranza culturale che sbarra la strada al futuro? Con la contaminazione, consapevoli che dai banchi di scuola si costruisce il futuro del nostro paese, quindi instillando questi elementi culturali che sono in assoluto i principali vincoli appunto per la creazione di impresa, ma non dimenticandoci che nel nostro paese abbiamo classe dirigente da un lato, interi pezzi della società che sono oggi impegnati a fare altro, pubblica amministrazione un po' distratta su questi temi, che dobbiamo invece riportare costantemente con dibattito pubblico e con concretezza ai temi dell'innovazione, della ricerca e della creazione di imprese. Grazie ad Antonio Pierdichizzi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Catania, ma soprattutto un enorme in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi. E domanda a diritto per Marco Vismara invece. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Consiglio di andare direttamente nel posto dove si è deciso di trasferirsi e raccogliere informazioni direttamente lì, vedere come pensa la gente, come si comporta la gente, qual è la situazione lavorativa, e di avere un'ottima base di almeno inglese e anche di sapersi vendere, ma non pretendere di essere trattati con i guanti bianchi perché si ha un master in una qualsivoglia università. Quindi di saper trovare il giusto equilibrio tra avere il master e pretendere un compenso adeguato per il lavoro che si vuole fare e che si andrà a fare. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi chiudiamo la serie 2012-2013 di Expats ritrovando una collega giornalista che negli ultimi anni ha dedicato molti sforzi alla ricerca di storie e dati sul tema della fuga dei talenti. 3 anni fa Claudia Cucchiarato, reporter italiana a Barcellona, ha scritto il libro Vivo Altrove. Ora quel libro è diventato un documentario che sarà presto diffuso in tutta Europa. Abbiamo incontrato Claudia proprio a Barcellona. Le abbiamo chiesto innanzitutto come è nata l'idea di trasformare il libro in film. L'idea è che in realtà è un'idea abbastanza semplice, le stesse storie che si riescono a raccontare in un libro in realtà sono molto più belle anche da vedere in immagine, con suono, voce e colori. Mi piace intervistare le persone e poi ho scoperto anche che intervistarle in video è una specie di sfida ancora più forte, no? Perché comunque devi cercare di tirar fuori il meglio di ognuno in pochissimi minuti. La mia idea era quella, siccome nel libro mi sono un po' sforzata di smorzare quest'epica dei cervelli in fuga, del successo e della grande opportunità che a volte si trova, che è sicuramente vero, delle grandi opportunità che troviamo noi che viviamo all'estero, e per questo questo ce ne andiamo e per questo rimaniamo fuori. Volevo soprattutto mettere ancora di più in luce, e con lo strumento cinematografico secondo me è più facile farlo, mettere in luce anche le contraddizioni e le difficoltà che ci sono in questo viaggio, perché non è sempre tutto roseo, non è sempre tutto bello all'estero, ci sono anche molte cose che perdiamo, ci sono anche dei sacrifici che dobbiamo fare per stare dove siamo. E questo è quello che io ho cercato di mettere in luce soprattutto, cioè le difficoltà e le contraddizioni, perché è abbastanza singolare il fatto che in tutte le interviste che ho fatto, anche per il libro, nel blog, ci sono sempre dei punti, delle piccole sfortune, diciamo, che non riusciamo a sciogliere stando all'estero. Il nostro attaccamento all'Italia paradossalmente diventa più forte man mano che passano gli anni, per esempio. Quante storie raccontate nel documentario e dove? Allora, nel documentario ci sono 5 storie e poi finalmente c'è la sesta storia fantasma che non c'era nel libro e che è la mia. Le 5 storie sono ambientate a Berlino, a Stoccolma, a Londra, un'altra è tra Ginevra e Barcellona e l'Australia e un'altra a Barcellona. Sono 5 storie che abbiamo scelto, diciamo, sia per le città, ma soprattutto volevano un po' descrivere le diverse facce che ha questo fenomeno. Infatti c'è un ricercatore al CERN di Ginevra, no? Quindi un grande cervello in fuga. C'è una ragazza che fa la cameriera a Londra e quindi anche quest'altra faccia, che lei, pur essendo laureata, preferisce fare la cameriera a Londra piuttosto che fare la cameriera a Milano, no? Poi c'è la storia invece della mamma che è andata a Stoccolma, in Svezia, nel paese delle mamme, per fare famiglia. Insomma, abbiamo cercato di scegliere e di riflettere nei limiti del possibile, perché essendo un fenomeno così grande e dalle infinite facce, abbiamo comunque cercato di renderlo il più rappresentativo possibile. C'è però un filo rosso che unisce tutte queste storie e che alla fine resta nella mente dello spettatore una volta che finisce il documentario? Esiste un filo rosso, ed è il filo rosso un po' della nostalgia dell'Italia, in un certo senso, e della nostalgia dell'Italia, delle contraddizioni, anche delle difficoltà che ci portiamo dietro, del successo comunque che abbiamo, che ci impegniamo ad avere, nonostante tutto. E il filo rosso io direi che è proprio le conseguenze dell'altrove, in un certo senso, cioè quello che riusciamo ad ottenere e quello a cui dobbiamo in qualche modo rinunciare. Mettere in luce queste conseguenze dell'altrove in realtà rende ancora più preoccupante, secondo me, il fenomeno, perché noi siamo disposti anche a cercare a sopportare delle contraddizioni e a cercare di risolvere dei problemi pur di non stare nel paese in cui dovremmo stare, che è l'Italia. Perché l'Italia in questo momento ci dà ancora meno di questo, no? Quindi secondo me è ancora più forte l'idea e la denuncia è ancora più forte vedendola da questo punto di vista. Vivo Altrove, documentario di Claudia Cucchiarato, lo potete trovare su www.vivoaltroveilfilm.it. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Si chiude con questa puntata l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa della settimana è Sì al Talento, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di giugno è: si emigra sempre più in due o anche in tre o più ancora? Quanto sta diventando un discorso di coppia o famiglia lasciare l'Italia? Con quali perdite per il sistema paese, se ad andarsene un pezzo di futuro giovane e qualificato? Raccontateci le vostre storie. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24, per la prima delle puntate estive di Giovani Talenti. Luglio sarà il mese interamente dedicato a storie di giovani professioniste all'estero. Un saluto e un augurio di buona estate da Sergio Nava.